qualcosa che mi sospinge in te piano. Non è un profumo in più, non è il vento, ora sei tu. Non mi lascia tempo, è qualcosa che assomiglia a te dentro. Chiara malinconia, non lasciarmi più. La rosa dell'inverno sei tu. Ormai so cosa sei per me. Cosa che assomiglia a te dentro. Spina e poesia, chiara malinconia, non lasciarmi più. Qualcosa che, qualcosa che mi sospinge in te, mi sospinge. Mi sospinge.